in primo piano. Buongiorno, buongiorno e buon anno da Giulia Crivelli. Ieri non ci siamo sentiti perché non c'erano i giornali, oggi invece appunto tornano i quotidiani in edicola. E allora cominciamo dal Sole 24 Ore, che ha un'apertura sul, finalmente possiamo dire, perché ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi, sull'entrata in vigore delle nuove regole dell'Unione Europea sulle banche. È in vigore infatti da oggi, di fatto dal primo giorno utile di gennaio, la normativa sui salvataggi. Ecco che cosa cambia per i risparmiatori, trovate tutto alle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore. Poi un lungo approfondimento alle pagine 19 e 21, richiamato in prima pagina, su Ferrari a Piazza Affari, che debutterà dopodomani, sarà operativa la scissione da FCA, da Fiat Chrysler Automobiles, quindi Ferrari verrà quotata da sola a Piazza Affari. Sugli scenari del 2016, questi articoli che il Sole 24 Ore sta affidando a autorevoli economisti o intellettuali o politici per cercare di così darci qualche dritta su quello che succederà nel 2016, vi segnalo in particolare l'intervento di Gordon Brown, che è stato premier del Regno Unito e al momento è inviato speciale dell'ONU per l'educazione. Il titolo è "Perché solo l'istruzione potrà battere il terrorismo". E poi vi segnalo, come molti altri giornali, anche il Sole 24 Ore ha un commento al discorso del presidente Mattarella, che ovviamente ieri non poteva essere registrato perché, come dicevo, i giornali non c'erano. Il discorso è naturalmente quello del 31 sera. Il commento del Sole 24 Ore è del direttore del Sole 24 Ore, nostro, di Radio 24 e del Sole, Roberto Napoletano, e si intitola "Realismo e fiducia". È un commento molto positivo, vi leggo le ultime righe. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo primo discorso agli italiani ha deciso di parlare da concittadino al cuore profondo del Paese, che ancora soffre, e lo ha fatto con un linguaggio accessibile, in tempi rispettosi di chi ascolta, dicendo le cose come stanno e avendo il coraggio di evitare le fanfare che distruggono fiducia invece di crearla. Ha parlato alla politica senza citarla, con un discorso nuovo che entra nella vita delle persone. Ha detto alla politica: avete fatto, ma dovete fare di più e parlare di meno. Se ne sentiva il bisogno. E con il Sole 24 Ore in edicola anche Plus 24, come ogni sabato, il settimanale dedicato alla finanza e al risparmio. La copertina non poteva che essere in un certo senso questa: chi merita la nostra fiducia, come valutare la banca attuale per poi magari cambiarla. Le nuove regole di salvataggio nelle eventuali crisi impongono a investitori e depositanti di capire meglio con chi si ha a che fare. Ecco alcuni criteri, trovate tutto appunto su Plus 24, che è il nostro tabloid del sabato. Il Corriere della Sera sceglie anche a sua volta un commento e un riassunto del discorso di Mattarella, con un commento appunto di Marzio Breda, che è il quirinalista del Corriere della Sera, ma la fotonotizia è dedicata a un reportage molto particolare fatto da Mika, il cantante Mika, che sapete è di origine libanese, è andato a fare una visita in Libano tra i rifugiati siriani. Il Libano è uno dei paesi che ne ha accolti e che ne sta accogliendo di più. Il racconto, il cantautore, la campagna dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, lo trovate poi alle pagine 12 e 13 del Corriere della Sera. La Repubblica ha una fotonotizia diversa, che è dedicata all'attentato che c'è stato ieri a Tel Aviv in un pub. Avete forse sentito negli aggiornamenti che probabilmente non è un attentato di chiarissima matrice jihadista, è forse solo, tra molte virgolette, uno squilibrato, il killer. In ogni caso ci sono stati due morti e parecchi feriti. Il racconto è di Fabio Scuto da Gerusalemme, in realtà naturalmente poi è andato a Tel Aviv, però è l'inviato in questo momento di Repubblica a Gerusalemme. Il titolo principale però è dedicato al discorso di Mattarella, sottolineando che i temi principali sono stati lavoro e fisco. In prima pagina anche questa notizia, che su certi giornali ha un'enfasi incredibile, non so, valutate voi se l'enfasi è giustificata, di questo capodanno festeggiato con un minuto di anticipo sulla RAI per un errore di conteggio, e poi il caso degli sms che scorrevano sullo schermo dei festeggiamenti della RAI, dove è apparso anche un sms con una bestemmia, e da qui appunto tantissimi commenti. La Stampa ha una fotonotizia che è praticamente identica a quella della Repubblica, dedicata quindi all'attentato nel pub di Tel Aviv, dove appunto i morti sono stati due, sette i feriti. Ma il titolo riguarda più in generale la Jihad e la mappa degli espulsi che porta in Albania e nei Balcani. Forse ricorderete, era un po' l'allarme che aveva lanciato l'Avvenire qualche giorno fa e che noi avevamo letto in questa rassegna, dove appunto si parlava dei Balcani come paesi in cui si rifugiavano o pianificavano attentati nuovi jihadisti. Poi vi segnalo anche l'editoriale di Maurizio Molinari che da oggi, o meglio da ieri, questo è il primo numero della Stampa che firma da direttore, è stato per tanti anni inviato della Stampa, ora sostituisce Mario Calabresi che, come ricorderete, due giorni fa appunto sulla Stampa del 31 dicembre dava il suo arrivederci / addio ai lettori della Stampa dopo quasi 7 anni, perché diventerà dal 14 gennaio direttore della Repubblica. Allora vi leggo questo intervento di Maurizio Molinari. Il 2016 inizia nel segno di un'accelerazione della storia e il nostro compito è di descriverne fatti e protagonisti. Economia digitale, aerei solari, biotecnologie disegnano le opportunità di generare posti di lavoro e innovazioni nel sapere, così come guerre tribali, terrorismo jihadista e indebolimento dell'Unione Europea mettono a rischio la sicurezza collettiva. La sfida è descrivere le opportunità senza farsi intimorire dai rischi e descrivere i rischi senza farsi distrarre dalle opportunità. Si tratta di raccontare fatti del mondo che si sovrappongono alle nostre cronache. A testimoniare le opportunità sono la trentenne italiana della Hit Parade degli economisti di Harvard, il neuroscienziato di fama della University College di Londra, laureatosi alla Sapienza di Roma, la task force del Politecnico di Torino creata con il Technion di Haifa per battere la siccità e i geofisici di San Donato che hanno scoperto il più grande giacimento di gas del Mediterraneo. Nello stivale o all'estero gli italiani sanno lavorare duro, assicura George Grasso, ex vice capo della polizia di New York. Lo stesso vale quando si tratta di affrontare i pericoli. I 65 terroristi espulsi sono frutto del lavoro di agenti che hanno messo a rischio la loro vita per proteggere le nostre. Così come rischiano i soldati che sorveglieranno la diga di Mosul per scongiurare l'inondazione dell'Iraq. Sui pericoli, come nelle opportunità, gli italiani sono al centro dei cambiamenti della stampa, di cui assumo la direzione, che tenterà di descrivere e che questi cambiamenti tenterà di descrivere, grazie a una redazione di valore e un'eredità di esperienze alla soglia dei 150 anni che la stagione di Mario Calabresi ha arricchito. E quindi appunto vedremo cosa cambierà nella stampa, se qualcosa cambierà con la direzione di Maurizio Molinari. La prima pagina del Messaggero è dedicata al messaggio di Sergio Mattarella, in particolare il titolo si incentra sull'evasione fiscale, perché prendendo spunto da un studio di Confindustria, Sergio Mattarella è tornato sul tema annosissimo dell'evasione, che è uno delle grandi piaghe del nostro paese, e ha spiegato, citando appunto questo studio di Confindustria, che oltre 120 miliardi all'anno sottratti al fisco sono troppi, così come troppi sono ancora i senza lavoro, specie tra i giovani. Secondo Renzi, in tema di elusione / evasione fiscale, dalla lotta appunto a questi fenomeni ci sarebbe un taglio di 5 punti dell'IRPEF, quindi di quelle tasse vengono imposte a tutti noi che siamo a reddito fisso, addirittura 5 punti appunto di IRPEF in 2 anni. Vi segnalo anche un intervento di Carlo Nordio, magistrato, sulla riforma della giustizia, che è uno dei temi che il governo Renzi aveva promesso di affrontare, non ci è riuscito nel 2016. Il ministro Orlando ha rilasciato 2 giorni fa un'intervista a Repubblica che ha poi avuto anche alcuni strascichi. Potrebbe essere una delle priorità del 2016, vediamo. Intanto Carlo Nordio però parla di promesse mancate. L'Unità si concentra su Beppe Grillo con questo titolo, Il tramonto del Grillo, che è tutto da dimostrare, perché per ora non abbiamo dei sondaggi che dicano che appunto c'è questo tramonto. In ogni caso il riferimento è al caso, che è alle durissime critiche che Beppe Grillo ha fatto al discorso di Mattarella. Secondo l'Unità, anche qui è proprio un'opinione, il comico non fa più ridere con la sua gestione stalinista e la retorica del sacro web. Un approfondimento su quello che secondo l'Unità è il tramonto del Grillo alle pagine 4 e 5. L'Avvenire titola sulle virgolettato del Papa, mai più indifferenti, sapete che questo è il giubileo della misericordia, e allora Francesco è tornato a usare questa parola dicendo: un oceano di misericordia può essere l'unico antidoto all'odio e alle violenze. Ma vi segnalo la fotonotizia con un reportage di Maurizio Patriciello dalla Terra dei Fuochi, perché un istituto del Superiore di Sanità conferma che quello che è successo nella Terra dei Fuochi in Campania è effettivamente nocivo per la salute, anzi uccide chi vive lì, chi vive lì e chi si è ammalato a causa di queste discariche abusive. Trovate tutto a pagina 3 e poi a pagina 11 la cronaca. Il giornale e in parte anche Libero scelgono di aprire sulla questione della RAI che vi ho citato prima, quindi botto di Capodanno, la RAI di Renzi come Fantozzi, il 2016 comincia con un mega flop, sbaglia l'ora e trasmette bestemmie, che poi si è trattato di una bestemmia isolata, di un SMS grave sicuramente, ma come sempre insomma titoli che esagerano un po', che prendono spunto dalla cronaca e poi esagerano un po'. Comunque c'è anche dalla prima pagina poi continua da pagina 2 a pagina 4 un accenno al discorso del presidente Mattarella. Mattarella cancella Napolitano, cioè il suo predecessore, ma non lo sconfessa sulla democrazia sospesa. Il giornale infatti spesso ribadisce che in fondo siamo in una democrazia sospesa perché questo non è un governo eletto, perché il premier non è appunto neanche stato eletto dagli elettori, e si invocano spesso elezioni anticipate. Libero ha un titolo leggermente diverso, con appunto anche un accenno alla vicenda della RAI, ma soprattutto parla degli aumenti che ci aspettano in questo anno che è appena iniziato. Autostrade e aerei più cari, tanti auguri da Renzi. Pedaggi salgono fino al 6%, e poi questa notizia che c'è anche su altri giornali che effettivamente fa molto effetto, sul fatto che il 70% del costo di un volo aereo Roma-Milano è di fatto assorbito dalle tasse, e crescerà ancora. Il Fatto Quotidiano ha un titolo simile a quello di Libero: nuovo anno, solite stangate per ingrassare le super lobby, trasporti e bollette, ennesimo aumento di autostrade, treni, luce e acqua. E poi, per quanto riguarda il discorso di Mattarella, viene definito Mattarella che sfata l'ottimismo renziano del tutto va bene, perché come abbiamo visto ha sottolineato come ancora nel nostro paese esista un'emergenza lavoro e un'emergenza evasione fiscale. Di fianco al titolo su Mattarella, un titolo su Rai 1 con la rabbia, pare, del direttore generale Dall'Orto, che vorrebbe cacciare Leone, direttore di Rai 1, per questo gravissimo errore del countdown che si è fermato con un minuto di anticipo, che ha segnato l'inizio del 2016 con un minuto di anticipo. Il titolo della Gazzetta dello Sport, in attesa naturalmente che ricominci il campionato il giorno dell'Epifania, è dedicato all'Inter, che in questa trasferta a Doha, secondo la Gazzetta, si fa un selfie scudetto. Per il difensore colombiano dell'Inter, Murillo, il nostro dovere è lottare per il titolo, e secondo la Gazzetta pure Mancini, l'allenatore, ora ci crede. Il Manifesto ha un titolo come sempre molto d'effetto, che è Guerra promessa. Il riferimento è all'attentato che c'è stato ieri a Tel Aviv. La foto non è quella pubblicata da Repubblica e Stampa, ma di una strada di Tel Aviv con tutti i militari che la presidiano. Attacco armato a Tel Aviv, due vittime, ancora morti palestinesi nei territori occupati. E poi per parlare anche di altri focolai di guerra, raid contro il PKK, il partito dei curdi, da parte dell'esercito turco, che nonostante l'ONU resta in Iraq, e poi c'è stato anche un attentato talebano a Kabul. E scrive il Manifesto, che poi racconta nei dettagli questi fatti alle pagine 6 e 7, è solo il primo giorno dell'anno nuovo. Ci lasciamo un attimo per la pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buon anno da Giulia Crivelli. Abbiamo visto tutte le prime pagine dei giornali, ora ci spostiamo su quelle interne. Torniamo sul Sole 24 Ore, la copertina del dorso di Imprese e Territori dedicato ai saldi, perché oggi cominciano già in quattro regioni: Basilicata, Campania, Sicilia e Valle d'Aosta, dal 5 di gennaio in tutte le altre. La previsione, ce lo racconta Cristina Casadei, è che ai saldi verranno fatti acquisti per oltre 5 miliardi, privilegiati abbigliamento e scarpe. La spesa media per la famiglia famiglia, sapete che ci sono sempre queste stime alla vigilia appunto dei saldi, sarà di 346 euro. E c'è anche un'intervista a, a Giovanni Cobolli Gigli, che è presidente di Federdistribuzione, che torna sulla, sul tema della liberalizzazione della data dell'inizio degli, dei saldi. E poi una notizia che forse qui sul Sole 24 Ore c'è anche su altri giornali, forse avrebbe meritato ancora più spazio, che è quella del calo dei feriti per i botti di Capodanno. Secondo la polizia sono state 190 le persone vittime di lesioni contro le 253 dell'anno scorso, merito della prevenzione, dei sequestri, dei botti abusivi, ma anche dei molti divieti dei comuni che, sapete, quest'anno sono stati molto più numerosi che nello scorso anno. Continua la guida pratica alla manovra, la legge di stabilità che decide sul budget, sulle possibilità di spesa per il nostro paese, per il nostro Stato nel 2016. A pagina 12 e 13 trovate un approfondimento sulla lotta per l'appunto all'evasione. Più tempo agli uffici fiscali per i controlli su IVA e dirette, ci racconta Laura Ambrosi. Stop al raddoppio dei termini in presenza di un reato tributario. E poi molte schede proprio riassuntive sul nuovo calendario, sui tempi più lunghi, sul come ci si può difendere dalle frodi fiscali, su quello che riguarda le misure fiscali, in particolare per prevenire l'evasione, sui beni non strumentali, il tema della carta e della moneta con quel divieto di uso dei contanti elevato a 3.000 euro e poi gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Trovate tutto, come dicevo, alle pagine 12 e 13 del Sole 24 Ore, e la guida alla manovra continuerà nei prossimi giorni. Il primo, come vi dicevo, quasi tre pagine dedicate al debutto di Ferrari che avverrà lunedì a Piazza Affari, quindi Andrea Malan ci racconta Ferrari pronta al debutto a Piazza Affari, si parte da una valutazione di 8,35 miliardi, ci sono naturalmente moltissime ipotesi su quale sarà l'impatto su FCA, su Fiat Chrysler Automobiles, la holding. E poi Paolo Bricco che ripercorre giustamente, e c'è infatti una foto del fondatore Enzo Ferrari, la storia della Ferrari, dal mito del Drache, così veniva chiamato, alle logiche della borsa. E trovate, come vi dicevo, tutto questo dalle pagine 19 alle pagine 21 del Sole 24 Ore di oggi. Il reportage di Mica, che vi ho citato, del Corriere della Sera, lo trovate a pagina 12 e 13. Il titolo: tra i rifugiati della Siria per ascoltarne le storie, c'è cioè un racconto generale e poi dei focus proprio su queste persone, giovani e meno giovani, ma anche bambini e anche anziani, che Mica ha incontrato in questo suo ritorno a casa, triste sicuramente, ma anche ricco di spunti, perché quando si incontra la sofferenza e si cerca di raccontarla, quasi sempre se ne esce arricchiti. Questo sembra un po' il messaggio di Mica. E poi vi segnalo da pagina 21 del Corriere, la notizia la trovate anche su altri giornali, che da oggi è in vigore il provvedimento voluto dalla Lega che vieta il burka negli ospedali e negli uffici. In tutti gli ospedali appunto lombardi e gli uffici verrà esposto un cartello, dove proprio una specie come quei cartelli che indicano i divieti, quindi un cerchio rosso barrato, per ragioni di sicurezza è vietato l'ingresso con volto coperto, cioè usando il burka o il niqab, che è il velo che copre anche che copre il volto ma non gli occhi, e anche il chador, che è in alcuni casi, se appunto copre parte del volto, che è invece quel mantello lungo fino ai piedi, e appunto poi naturalmente il burka, che come sappiamo copre proprio tutto. Sempre dal Corriere, pagina 41, Dario Di Vico racconta la svolta delle partite IVA, un nuovo statuto e welfare all'esame di governo e Parlamento, c'è una legge sulle tutele, competenze e pagamenti appunto di chi sceglie questo regime fiscale della partita IVA. Vi segnalo a proposito di Islam invece una bella intervista, pagina 11 della Repubblica, di Antonello Guerrera a Ayaan Hirsi Ali, che è una scrittrice somalo olandese, e dice: l'Islam radicale è come la mafia, non bastano le bombe, è una battaglia culturale, dobbiamo ripartire dai riformatori, ed è vero, l'Islam può adattarsi alla nostra società, ma ci vuole tempo e pazienza. Per quanto riguarda i valori, libertà e diritti sono valori fondamentali che dovremmo difendere senza timori anche nel mondo arabo. Questo l'appello appunto di questa scrittrice, che ha 46 anni e vive negli Stati Uniti sotto protezione, tra l'altro, proprio per alcune sue posizioni contro l'Islam più radicale. E a proposito di donne forti che hanno avuto vite molto ricche e interessanti, c'è un'intervista a pagina 21 di Repubblica di Maria Novella De Luca a Melita Cavallo, che è presidente del Tribunale per i minori di Roma e da ieri è in pensione. Nella sua lunga carriera appunto di magistrato, di presidente del Tribunale per i minori di Roma, ha visto di tutto, ha visto anche cambiare molte leggi, ha visto cambiare anche cambiamenti culturali nella società. La giudice coraggio e i diritti dei bambini. Vi spiego perché i gay possono adottare. Sapete che questa è la questione dell'adozione tra i gay o della stepchild adoption con eventuali modifiche, sarà uno dei temi sicuramente della prima metà del 2016, perché la legge verrà esaminata dai due rami del Parlamento. E poi da Repubblica sempre un articolo interessante di Sara Bennewitz, Spending Review anche in Oman. Forse ricorderete, qualche giorno fa abbiamo segnalato l'austerity dell'Alaska, l'Alaska che è uno degli stati americani che è diventato molto ricco con il petrolio, ricco al punto da poter di fatto azzerare le tasse per i suoi cittadini, ha dovuto rimetterle perché il crollo del prezzo del petrolio ha creato appunto un clima di austerity. Poi è toccato all'Arabia Saudita, sempre per colpa del prezzo del petrolio, e ricorderete le foto delle code di queste mega macchine dei sauditi alle pompe di benzina nel giorno prima dell'annunciato aumento della benzina, che comunque costa pochissimo rispetto a noi, ma che per loro è un grande cambiamento. E ora tocca all'Oman. Il crollo del petrolio dopo l'Arabia Saudita, un altro paese produttore taglia la spesa e alza le tasse. A proposito, invece, torniamo sulla stampa, e a proposito di infrastrutture, un'intervista a Graziano Del Rio, ministro delle infrastrutture. Dopo la variante di Valico, che ricorderete è stata inaugurata dopo quasi 15 anni di lavori la scorsa settimana dal premier Renzi, ora potenziamo Fiumicino, questa è l'idea del ministro. Non servono ricette miracolose, grazie agli investimenti pubblici ci sarà anche maggiore occupazione. Vi segnalo ancora un articolo su quello che viene definito il disastroso capodanno della RAI, a pagina 17 della stampa, e anche qui però mi sembra più interessante invece i dati sul crollo dei feriti per i botti di capodanno. Qui c'è proprio uno schema che mostra come ci sia stato un crollo costante dal 2012, quando i feriti furono 561, con addirittura due morti anche nel 2013 con 361 feriti però, e come abbiamo visto nel 2015 si è scesi a 251. Un articolo interessante sul Messaggero invece riguarda la questione dei Marò. Ci sarebbe un negoziato segreto, si tratta del rientro di Girone, Massimiliano Girone, che è ancora a Nuova Delhi. I governi di Italia e India negano, ma secondo questo retroscena raccontato da Marco Ventura, questo negoziato è avviato, forse addirittura a buon punto. Roma ritirerebbe il veto sugli indiani per l'organismo di controllo sui missili. Ancora dalle pagine del Messaggero trovate tanti commenti e tanti riassunti degli interventi di questi giorni di Papa Francesco, così importanti sui temi della pace ma anche della famiglia e della misericordia più in generale. E poi mi sembra molto interessante questo pezzo che trovate a pagina 7, la diplomazia del dialogo. Francesco chiama Cuba e Colombia agli obiettivi a portata di mano, in salita invece i cantieri libici e siriani per quanto riguarda appunto il raggiungimento di una pace duratura. E poi una storia raccontata dall'Avvenire molto triste, che è quella dell'India, a proposito di India, che ha negato il visto a quello che l'Avvenire definisce l'angelo dei lebbrosi, cioè Suor Bertilla Capra, che ha 77 anni, è una missionaria dell'Immacolata in India, originaria del Bergamasco, e ora rischia l'espulsione dopo 45 anni di lavoro in un lebbrosario indiano. Poi questa notizia che ho trovato solo sull'Avvenire, ma che sicuramente interessa molti appassionati di Formula 1, Monza alza il tiro, ci sarebbero 20 milioni per salvare il Gran Premio. Sapete che è a rischio il Gran Premio di Monza, il Gran Premio d'Italia di Monza. L'ACI però potrebbe utilizzare fondi del PRA per accontentare Bernie Ecclestone, il numero uno della Formula 1, che appunto ha contestato il Gran Premio di Monza, o meglio la collocazione a Monza del Gran Premio d'Italia. Un'intervista su Libero a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Silvio e Matteo devono essere più generosi. Silvio Berlusconi naturalmente, il primo abbia il coraggio di fare un gesto forte, il secondo impari a giocare di più in squadra. Questa è un'intervista dove si toccano molti temi che riguardano il futuro del centrodestra. E poi una pagina molto curiosa, sempre su Libero, le reliquie di Expo. Pensate che i gadget dell'evento, che come sapete è finito il 31 di ottobre, i gadget dell'evento sono sulle aste online a prezzi folli: barattoli di caffè a 2000 euro, swatch e passaporti a 500. Il passaporto era un fascicoletto che veniva distribuito all'entrata di Expo, e chi fosse riuscito a visitare tutti i padiglioni avrebbe avuto un passaporto appunto pieno di timbri. Dal Fatto Quotidiano vi segnalo un tema che in realtà è stato trattato nei giorni scorsi anche da altri giornali. In questo caso però c'è un'intervista a un demografo, Marcantonio Caltabiano, ricercatore dell'Università di Messina, che spiega come nel 2015 ci siano stati meno di 500.000 nuovi nati, mai così pochi dall'Unità d'Italia. Quindi si torna su questo tema demografico dell'Italia, che è un paese che insieme al Giappone è il paese occidentale che sta invecchiando più velocemente. Sempre dal Fatto un gustosissimo articolo sulla versione originale delle favole dei fratelli Grimm, che sono in realtà molto più crudeli delle versioni che poi sono diventate famose, La ferocia dei Grimm, favole senza censura. Per esempio nell'originale Biancaneve viene risvegliata dai servi e non dai sette nani, Raperonzolo addirittura resta incinta, Policino è un po' scemo, ma sono verità che forse alcuni hanno giudicato che non si addicano ai bimbi, e da qui quindi poi non la versione originale, che è questa che ora pubblica Donzelli, tutte le fiabe, ma quelle possiamo così dire tra virgolette un po' edulcorate. Ultima segnalazione da Repubblica, R Club, le pagine di cultura, di approfondimento di Repubblica. Oggi una lunga intervista al cantautore Ascanio Celestini, il mio 2016 a passo lento, prendete una pausa per non perdere la bussola, questo il suo consiglio. Ancora un buon anno, un buon sabato da Giulia Crivelli, grazie a Filippo Oreggi in regia, ci sentiamo domani con i quotidiani della domenica.